Mix 24 di Giovanni Minoli. Credo che l'austerità sia pericolosa. Ho insistito su ulteriori misure di austerità e questa ulteriore dose ha portato l'economia ancora più in basso. Moscovici si è recato ad Atene per incontrare il premier Tsipras. Non chiediamo né pretendiamo misure di austerità. Deve esserci anche per i greci una luce alla fine del tunnel. Il Portogallo sta cercando di voltare pagina dopo anni di grave austerità. Cerca di diventare una destinazione per gli investimenti e l'innovazione. Chiediamo che ci sia da parte dell'Europa uno sguardo più degno, che quel modello economico che negli anni dell'austerity è stato presentato come l'unica spiaggia, l'ultima spiaggia, l'unica chance, e che ha dimostrato i propri limiti e le proprie debolezze, sia finalmente accantonato e superato. Buongiorno, bentornati su Mix 24, tutti contro l'austerità, l'abbiamo sentita, l'austerità blocca la crescita, sono in molti averlo pensato in questi anni. Veronica De Romanis invece, economista, biografa personale di Angela Merkel, ha scritto un libro in cui sostiene la tesi opposta. Il titolo è L'austerità fa crescere quando il rigore è la soluzione, edito da Marsiglio. Buongiorno, buongiorno De Romanis. Allora, buongiorno. Allora solo contro tutti si sta bene? Ma no, no, ci sono molti studi che vanno nella mia direzione. Sicuramente questi studi non piacciono ai politici perché l'austerità, ossia rimettere i conti in ordine, toglie loro la leva della spesa pubblica, quindi che dà consenso. Sola contro tutti non si è sentita male, quindi si è sentita in compagnia dei migliori. Dei migliori non lo so, ma non sono sola. Senta, il titolo del suo libro, lo ricordiamo, è L'austerità fa crescere senza nessun punto interrogativo. Ma perché ne è così sicura? Ma perché lo dicono i dati. Se noi andiamo a guardare i dati Eurostat, gli ultimi che sono usciti, i paesi che nell'ultimo quinquennio, diciamo 2011-2016, hanno rimesso i conti in ordine, hanno tagliato le spese improduttive, oggi crescono. E penso alla Spagna, che ha un tasso di crescita oltre il 3, all'Inghilterra oltre il 2, all'Irlanda oltre il 5. Quelli che invece non hanno fatto nessun tipo di consolidamento fiscale, e qui c'è l'Italia e la Francia, e anzi nell'ultimo quinquennio hanno aumentato la spesa pubblica, oggi sono i fanalini di coda, crescono la metà della media dell'area dell'euro. Ecco De Romanis, ma nello scrivere il libro, la paura di sbagliarsi le è venuta in qualche momento, ha avuto qualche dubbio oppure no? Guardi, ho controllato i dati milioni di volte, perché poi quando un dato è scritto rimane lì, e pensi che due giorni prima, che dovevo, quando dovevo consegnare il libro, sono uscite le nuove previsioni Eurostat di primavera. Ha avuto paura? No, l'ho ricontrollato tutte e le devo dire che è rimasto un refuso, ma in realtà un refuso che rafforza la mia tesi, perché le previsioni hanno rafforzato la crescita in Spagna più di quanto era previsto in ottobre. Quindi si è sentita più tranquilla, più tranquilla. Senta, lei scrive che l'austerità è diventata un capro espiatorio, ma un capro espiatorio di che cosa allora? Beh, è stato utilizzato soprattutto dai politici, l'ha fatto sentire lei prima, sembra Obama, Moscovici, sì. Come la responsabile di tutti i mali. Per esempio, solo ieri Renzi ha detto che dove c'è stata austerità è aumentata la disoccupazione giovanile. Di nuovo, se guardiamo i dati e non ci fermiamo alle opinioni e agli slogan, è esattamente il contrario. Come le dicevo, i paesi che hanno fatto un consolidamento fiscale, la disoccupazione è scesa, mentre è avvenuto il contrario negli altri paesi. Senta De Romanis, ma è vero che austerità quindi non significa per forza automaticamente sconfitta elettorale, oppure austerità significa sconfitta elettorale? Ma questo è quello che pensano i politici, però anche qui, se guardiamo quello che è successo negli ultimi anni, vabbè, uno può prendere un esempio di un paese. Mi faccio esempi. Ecco, le faccio esempio, un paese piccolo piccolo è la Lettonia, dove è proprio un po'. Bene, bene, okay, non allora esageriamo. Passiamo a un paese più grande che la Valle d'Aosta, Cameron. La Valle d'Aosta. Benissimo, passiamo a un paese più grande come Cameron, dove lui è stato eletto la prima volta dicendo io ridurrò il debito. E infatti poi ha perso, poi ha fatto Brexit e ha perso. Aspetti, però qui non bisogna confondere. Lui ha perso per la Brexit, non ha perso per l'austerità. La Brexit è stato un errore politico. Io sto parlando di scelte di politica economica, quello è completamente diverso, ma Conte per esempio ha vinto anche perché ha detto al duello, all'ultimo dibattito in televisione a Madame Le Pen, gli ha detto noi ridurremo la spesa pubblica di 60 miliardi di euro. Ultimo esempio che le faccio, oggi in Spagna c'è Rajoy che è stato considerato il premier dell'austerità, per due elezioni il suo partito, che è stato quello che ha rimesso i conti in ordine, ha fatto veramente un consolamento fiscale molto severo, è il partito che ha ottenuto il più alto numero di voti. Quindi questo dimostra che quando ai cittadini si racconta la verità e si promette un programma di gestione responsabile delle loro risorse, perché ricordiamoci si tratta delle tasse dei cittadini. Beh, naturalmente. I cittadini ci credono. Senta De Romanis, però l'austerità non ha risolto il problema della Grecia. Atene è entrata in recessione per la quarta volta, non mi pare una cura salutare per la Grecia. Allora, qui bisogna spiegare come è andata bene la Grecia, bisogna spiegare quali sono le responsabilità nazionali e le responsabilità dell'Europa. Quando Samaras, che era l'ex premier, nel 2014 ha perso le elezioni, la Grecia aveva ricominciato a crescere dopo 7 anni di recessione, infatti il paese era ritornato a collocare sul mercato titoli di debito pubblico per 4 miliardi, quindi vuol dire che il paese era ritornato credibile. I greci hanno votato Tsipras, che aveva promesso la luna, aveva promesso basta l'austerity, ha preso un alleato, questo Kamenos, che durante il suo governo, quando fu ministro, la spesa pubblica aumentò di 10 punti percentuali e ora la Grecia è ritornata in recessione. Ma perché? Perché aspetti, Tsipras ha fatto delle scelte sue, nazionali, ha deciso di per esempio far pagare i costi del sacrificio ad alcune categorie di persone, non ad altre, per esempio la classe media, non ha aumentato le tasse agli armatori, ha aumentato la spesa in difesa, ha ridotto quella nella sanità. Queste sono scelte nazionali. Senta, non c'entra niente l'Europa e non c'entra niente l'austerità. Niente. Senta. Infatti Tsipras, guarda, scusi se aggiungo, no, Tsipras, prego. La sua popolarità è crollata. Cioè, i greci hanno capito che è lui che sta sbagliando. Senta, ma cosa accadrebbe, per esempio, con una vittoria di Grillo in Italia dal suo punto di vista dell'austerità? Questo è un po' difficile dirlo perché il programma di Grillo non è chiaro noto a livello di politica economica, c'è solo un punto, quello sull'euro, euro sì, euro no, e devo dire che oramai siamo rimasti gli unici a parlare di questo. Anche la Marine Le Pen durante la campagna elettorale ha capito che nessuno vuole uscire dall'euro. Senta, lei sull'Italia apre un capitolo sulla frattura generazionale, dice i vecchi che consumano il futuro dei giovani, ma l'austerità in tutto questo cosa c'entra? Beh, c'entra perché l'austerità significa anche redistribuire le risorse che, come dicevo, sono dei cittadini, e quello che abbiamo visto negli ultimi anni in Italia è che le risorse sono state redistribuite a favore degli anziani. Abbiamo visto una finanziaria che ha dato ai pensionati 7 miliardi, si è parlato per mesi della flessibilità in uscita, dei giovani non se ne occupi veramente nessuno. E qui, guardi, le ricordo una cosa che può essere simbolica ma è importante: quando Renzi ha fatto il discorso per la candidatura alle primarie, nel suo 41 minuti di discorso, e questo io lo scrivo nel libro, non ha mai pronunciato la parola giovani, mai. Senta, ma la crisi finanziaria del 2011 che ha condotto al governo tecnico di Monti, che giudizio dà lei di quel periodo di violentissima austerità? Beh, bisogna dire che intanto il governo tecnico è un'anomalia solo italiana, non esiste nessun altro paese che ci sia solo un governo di soli tecnici. All'epoca anche in Grecia arrivò un governo con un premier tecnico, Papademos, che purtroppo oggi, insomma, in questi giorni ha avuto un attentato, ma non era solo di tecnici, ma erano anche politici. Quello che trovo che non è giusto è che i politici italiani si sono un po' lavati le mani, hanno fatto fare il lavoro sporco in quel momento, cioè di rimettere i conti in sicurezza ai tecnici, salvo poi dargli dopo la colpa, e questo non è corretto. I risultati Monti li ha ottenuti, è vero che ha fatto un'austerità che io nel mio libro la chiamo cattiva, perché ha dovuto aumentare le tasse. Certo, ma proprio così, perché non aveva un mandato politico. Quell'austerità lì è facile da fare. Senta, il Parlamento italiano ha votato all'epoca il Fiscal Compact. Oggi però il Fiscal Compact è rinnegato da tutti, non è figlio di nessuno, un po' come il bail-in. Perché? Per quello che dicevo prima. prima, che questi politici che fine sono irresponsabili, cioè votano, forse votano perché non capiscono, ma allora ci dobbiamo domandare perché li paghiamo. Se non erano d'accordo, per esempio la Lega si è astenuta e l'Italia dei Valori non ha votato, ha votato contro, quindi c'è chi si è opposto. Tutti gli altri, che sono quelli che oggi dicono basta con queste regole, aboliamole, all'epoca hanno votato non solo... Ma insomma questi politici, secondo lei... Ma il parere di bilancio, scusi, in Costituzione, scusi, che non era scusi De Romanis, ma questi politici quindi non capiscono nulla, secondo lei? Ma io non lo so, però... No, se uno glielo vota chiedo, una cosa, visto che lei... No. No, è molto rigorosa, ma non capiscono nulla neanche gli italiani che le votano. No, ma se io voto in Parlamento il Fiscal Compact in Costituzione, e che non è necessario, l'abbiamo fatto solo noi, la Spagna e la Slovenia, e nessun altro paese ce l'ha messo, e dopodiché dico che invece il Fiscal Compact deve essere abolito, allora potrebbe anche essere che ho cambiato idea, però bisogna spiegare perché ho cambiato idea. L'opinione pubblica ha diritto a capire. Senta De Romanis, lei dice che le regole fiscali servono e non sono stupide, ma che servono è ovvio. L'ex presidente della Commissione Europea invece, Prodi, dice che il patto di Maastricht per esempio è stupido. Lei è d'accordo? Allora, come diceva Carla Zerio Ciampi, l'unione monetaria è come un condominio. Lei comprerebbe la casa in un condominio dove non ci sono regole, ognuno fa quel che gli pare, poi qualcuno rompe l'ascensore e lei lo deve aggiustare perché abita all'ultimo ma piano. Ma se lei deve pagare l'ascensore di quello che abita all'ultimo piano, lei abita al primo, però magari le dispiace. Appunto, quindi vuole delle regole. Noi guardi che per paesi che non hanno rispettato le regole in questi ultimi anni, e per andarle incontro, per salvarle, li dobbiamo salvare perché noi siamo legati da una moneta unica, abbiamo speso 60 miliardi di euro di tasse degli italiani, e questo aumenta il nostro debito pubblico, l'avremmo potuto utilizzare in altri modi. Senta, ma alla fine, De Romanis, in Italia non c'è austerità, ma non c'è neanche crescita. Cosa è successo? Ma l'Italia non c'è stata austerità, e questo va detto molto chiaramente. Negli anni del governo Renzi la politica fiscale è stata espansiva, e non solo, siamo il paese che ha più beneficiato della famosa flessibilità. Cioè l'abbiamo sprecata, insomma, secondo lei l'abbiamo sprecata questa flessibilità? L'abbiamo utilizzata non per spese produttive, per investimenti. L'abbiamo infatti sprecata. Se guardiamo di nuovo i dati, gli investimenti si sono ridotti dal 2014. Senta, ma l'abbiamo utilizzata per spesa corrente. De Romanis, se siamo in chiusura, cosa le è piaciuto delle cose dette dal governatore di Banca d'Italia Visco ieri? Ha fatto una difesa strenua del suo lavoro? Beh, ha detto una cosa molto importante, che bisogna assolutamente invertire la rotta del debito pubblico. Questo ci porta a fragilità e soprattutto a un fardello per i giovani. Di nuovo, questi giovani non se ne occupa mai nessuno. Vabbè, insomma, quindi un ritratto di un paese fortemente in pericolo. No, la situazione non è come il governo tecnico di Monti. Ci sono vari strumenti, c'è il quantitative easing di Draghi, ci sono... Sta per finire anche quello, insomma, no? Esatto, infatti il ministro Padoan l'ha detto molto chiaramente 2 o 3 giorni fa in un'intervista: dobbiamo essere preparati. Questo significa che dobbiamo arrivare a quell'appuntamento lì, che ad oggi ci ha fatto risparmiare oltre 60 miliardi di euro di spesa per interessi. Dobbiamo arrivare con i conti un po' più in ordine di oggi. Senta, dottoressa De Romanis, un'ultimissima cosa, ma lei si prepara per fare il ministro dell'economia di quale governo? Ma guardi, io non lo so, però forse i tempi sono maturi per una donna al Ministero dell'Economia. Un governo qualunque, insomma, va bene qualunque governo? Non lo so, ho lavorato tanto tempo al Ministero, conosco i corridoi, sicuramente non mi perderei. Non si perderebbe. Allora l'austerità fa crescere, quando il rigore è la soluzione. Veronica De Romanis, edito da Marsiglio. Grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, insomma, bisogna preoccuparsi per la prossima legge di stabilità, il rischio di un ciclo da spesa elettorale. Sicuro andrà così. Spenderemo un sacco di soldi, sempre spesa corrente. La legge di stabilità con i buchi intorno, sarà. Per forza, vuota. Quindi... Senti Pietrangelo, sempre miliardi, ma per il sud, le isole, poca roba, anche i giovani. Siete equiparati ai giovani, voi delle isole? Più o meno. C'è una mancanza di proporzione. In realtà è una popolazione invecchiata, sempre più residuale, e con dei vuoti in quella grande provincia che ha trasformato un territorio di assoluta centralità in una spaventosa periferia. Continui a pensare che il male della Sicilia è l'autonomia? Decisamente, non è in grado di reggere un'istituzione così importante che richiede una grande responsabilità. Quello che va bene in Trentino non può andare bene in una realtà come quella siciliana, dove il ceto politico si identifica con un gruppo famelico irresponsabile che non ha mai avuto il senso dello Stato. Ma una delle notizie di questi ultimi giorni riguarda una storia che viene da lontano. Il sequestro delle due polizze vita dal valore di 495.000 euro ciascuna è l'ultimo atto per ora di un caso giudiziario che aggrava e non poco la posizione di Gianfranco Fini. Ricordi quella notte a Monte Carlo? L'inchiesta parla di concorso in riciclaggio e rimanda alla famosa casa di Monte Carlo. Nella storia della Repubblica è la prima volta che un ex presidente della Camera dei Deputati viene indagato per riciclaggio. E poi scappammo verso l'una con la barca. Una vittima della sua compagna, un ingenuo, come lui stesso si era definito qualche tempo fa in un'intervista, emerge un profilo ben diverso. Il GIP scrive: si è davanti al più inquietante dei riciclaggi correlato con il condizionamento per fini privati di una funzione primaria dello Stato. Ti ricordi quella notte al Principato? Questa è una vicenda che, quando sarà ancora più chiara di quel che è, farà ridere. Ci giocammo una fortuna al casino. Impietoso il commento di Francesco Storace: se l'induzione al suicidio non fosse un reato, gli consiglierei di spararsi. Vabbè, speriamo naturalmente di no, ma allora però vi facciamo ascoltare una ricostruzione dell'intera vicenda fatta con Giovanna Corsetti a partire dalla testimonianza di quello che è stato il segretario particolare di Gianfranco Fini, Francesco Proietti Cosimi. Quando è arrivata la Tulliani, non so per quale motivo, Fini ha deciso di non avere più rapporti con tutti quelli che hanno collaborato con lui. Si è fidato forse esclusivamente dei Tulliani. E questo mi dispiace, perché ecco il risultato. Il risultato è un avviso di garanzia per riciclaggio nei confronti di Gianfranco Fini e di tutta la famiglia Tulliani per l'affare della casa di Monte Carlo, e anche per molto di più. Ma per capire qualcosa di questa vicenda bisogna ripartire dall'inizio, dal momento in cui Fini ha abbandonato Berlusconi con una scelta che sembrava una scelta solo politica, ma invece forse c'era anche dell'altro. E allora, scusami, ma io intendo che vuoi fare queste dichiarazioni, le fai da uomo politico nel partito e non da presidente della Camera. È il 2010 e Fini è l'uomo di Futuro e Libertà che si separa da Silvio Berlusconi e dal Popolo delle Libertà. Berlusconi pensa solo ai suoi interessi, è contro la riforma della giustizia, sembra la fotocopia del Carroccio, si è scordato degli italiani. Il progetto è chiaro, Fini si presenta come il nuovo leader della destra moderata e ha l'appoggio di Stampa e Quirinale. Ma sul più bello da Monte Carlo arriva una tegola, anzi una casa intera, l'appartamento in Boulevard Princess Charlotte 14, donato ad Alleanza Nazionale e da Gianfranco Fini, allora presidente, dalla contessa Anna Maria Colleoni. Nel 2008 il partito vende l'appartamento ad una società offshore, le Printemps Limited di Santa Lucia, per 300.000 euro. E proprio nei giorni della separazione un'inchiesta condotta dal giornale, da Libero e da Panorama, e poi un documento del capo del governo di Santa Lucia, rivela che la società sarebbe riconducibile al cognato di Gianfranco Fini, Giancarlo Tulliani. A lui quindi sarebbe stata venduta, anzi svenduta per 300.000 euro, la casa. Ma il valore supera il milione e sul citofono di Boulevard Charlotte c'è scritto Tulliani. Ma per Fini è solo cattiva stampa. È partita un'ossessiva campagna politico-giornalistica per costringermi alle dimissioni da Presidente della Camera. Così deve averla pensata qualcuno. Ad esempio chi auspicava il metodo boffo nei miei confronti, oppure chi mi consigliava, dalle colonne del giornale della famiglia Berlusconi, di rientrare nei ranghi se non volevo che spuntasse qualche dossier testuale anche su di me, perché oggi tocca al Premier, domani potrebbe toccare al Presidente della Camera. Profezia o minaccia? Puntualmente, dopo un po', è scoppiato l'affare Monte Carlo. Il 30 luglio 2010, lo stesso giorno in cui Futuro e Libertà entra in Parlamento, la destra di Francesco Storace presenta un esposto per truffa aggravata. La Procura di Roma apre un fascicolo. Fini riceve un avviso di garanzia per truffa, un atto dovuto, il suo commento. E poiché, a differenza di altri, io non strillo contro la magistratura, attendo con fiducia l'esito delle indagini. E poi precisa. Certo, anch'io mi chiedo, e ne ho pieno diritto, visto il putiferio che mi è stato scatenato addosso, chi è il vero proprietario della casa di Monte Carlo? È Giancarlo Tulliani, come tanti pensano? Non lo so. Gliel'ho chiesto con insistenza. Egli ha sempre negato, con forza, pubblicamente e in privato. Restano i dubbi? Certamente anche in me. E se dovesse emergere con certezza che Tulliani è il proprietario e che la mia buona fede è stata tradita, non esiterei a lasciare la presidenza della Camera, non per personali responsabilità che non ci sono, bensì perché la mia etica pubblica me lo imporrebbe. Nel 2011 la Procura di Roma archivia tutto, nessuna frode. Tulliani aveva ricevuto i soldi necessari per l'acquisto della casa da un collaboratore di Francesco Corallo, imprenditore del gioco d'azzardo, in affari con i Tulliani, e il prezzo della casa è congruo. Nell'affare Monte Carlo non c'è truffa, ma la casa è proprio del cognato di Fini. Ha sbagliato, secondo me l'unico errore è stato quello di non di subito che l'aveva venduta, magari al cognato, ad una società presentatagli dal cognato, no? E finiva là il discorso. A me è stato mal consigliato sin dall'inizio, quindi già dire che la casa di Monte Carlo non ne sapeva niente, è stato un errore eclatante. E se dovesse emergere con certezza che Tulliani è il proprietario e che la mia buona fede è stata tradita, non esiterei a lasciare la presidenza della Camera. Quando è arrivata la Tulliani, non so per quale motivo, Fini ha deciso di non avere più rapporti con tutti quelli che hanno collaborato con lui. Si è fidato forse esclusivamente dei Tulliani. Fini resta contro di lui solo la macchina del fango degli amici di Berlusconi e del suo giornale. Poi il giudice dell'archiviazione Giovanni Ferrara, sempre nel 2011, da capo della Procura di Roma, diviene sottosegretario agli interni del governo Monti, con l'appoggio proprio di Futuro e Libertà. Ma tra dubbi e sospetti il sogno politico di Fini sfuma, e nelle politiche del 2013 con Monti e Casini il suo Futuro e Libertà porta a casa lo 0,47%. E Fini allora se ne va, tutto sembra finito, la politica e i guai giudiziari, ma la Procura di Roma è ancora al lavoro. E così nel 2016 spunta una nuova inchiesta per riciclaggio ed evasione fiscale. Al centro il re delle slot, Francesco Corallo, e la sua Atlantis B+, società concessionaria dello Stato per le slot machine, di cui amministratore unico è l'ex parlamentare PDL Amedeo La Boccetta, e che avrebbe evaso imposte per 215 milioni di euro, di cui, secondo i magistrati, 3,5 finiti sui conti dei Tulliani. Partono le perquisizioni anche per Sergio e Giancarlo Tulliani. Dagli accertamenti bancari e finanziari torna a galla un altro pezzo della storia della casa di Monte Carlo, passata di proprietà in proprietà tra varie società offshore legate ai Tulliani, anche se a pagare per ogni compravendita è sempre il solito Corallo, che Fini conosce bene prima dei Tulliani, come nell'estate del 2004 a Saint Martin. Stamattina ci siamo andati, eravamo un gruppo di amici, siamo andati a fare le immersioni e ci siamo andati dopo una grande insistenza di Amedeo La Boccetta. Corallo l'abbiamo visto due volte sole. Quando poi siamo rientrati, non mi risulta che ci siano stati nell'immediatezza frequentazioni tra Fini e Corallo. L'unica cosa che mi ha lasciato perplesso è quando poi ho letto sul giornale, oppure che alla luce oggi è tutto quanto, che era stato pure invitato al battesimo della figlia. Io non sono stato invitato, non c'ero, però se i giornalisti l'hanno visto, significa che lui da solo ha continuato a frequentare Corallo. Io no. Corallo, per chi la compra la casa? La casa di Monte Carlo è stata comprata per la famiglia Tulliani a questo punto. Oppure era un'operazione immobiliare, compro e poi rivendo, perché se la sono rivenduta. Nel 2015 l'appartamento viene venduto per l'ultima volta ad 1.400.000 euro dalla Timara Limited, sempre con sede a Santa Lucia e sempre riconducibile ai Tulliani. Ma questa volta in prima fila non c'è il cognato, ma Lady Fini, Elisabetta Tulliani. Addirittura, non neanche del fratello, non ero minimamente a conoscenza. Per me è un dramma personale, ecco, familiare. Non posso prendere in considerazione l'idea di essere stato, il termine che mi viene è poco protocollare, ma insomma, no, palesemente un coglione, ma certamente non sono mai stato corrotto in vita mia e non ho mai mentito su tutta questa vicenda. ho conosciuto Fini per 30 anni, però devo dire la verità, è che dopo aver sentito lui dire al Fatto Quotidiano che allora sono un coglione, mi rendo conto che l'amore è cieco. Si è reso conto che il coglione non era solo per la casa di Madonna, ma il coglione era troppo coglione. E da amico gli consiglio sempre la stessa cosa, se sei un coglione, insomma, provvedi a dimostrare di non essere più un coglione. Ma adesso sulla casa di Monte Carlo dici, Fini dice addirittura sono stato un imbecille, ma è sufficiente? Purtroppo no, insomma, il dire mi sono fatto prendere in giro per un uomo di quella levatura, no. Ma cosa l'ha rovinato? L'amore o qualcos'altro? Me lo chiedo da anni, non ho dato una risposta. Non ce l'ha una risposta. E una risposta arriva ancora dalla Procura di Roma. Lo scorso 14 febbraio la Guardia di Finanza sequestra beni per 5 milioni di euro alla famiglia Tugliani e sull'ordinanza del GIP c'è scritto: dal 2008 la famiglia Tugliani riceve cospicui trasferimenti in denaro. Almeno 7 milioni di euro da Francesco Corallo non collegabili a reali prestazioni effettuate e privi di una causale logica. L'ipotesi di reato, reimpiego ed autoriciclaggio per Sergio, Giancarlo ed Elisabetta. E con i Tuglianos, anche l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, riceve un avviso di garanzia per riciclaggio. E nelle carte si legge: i Tugliani ricevevano gli ingenti trasferimenti sui loro conti personali e su quelli di società offshore, grazie ai rapporti di Gianfranco Fini con Corallo. I Tugliani e dunque lo stesso onorevole Fini sanno bene che si tratta di soldi illeciti provenienti dall'attività criminale e dall'associazione a delinquere capeggiata dallo stesso Corallo. L'avviso di garanzia è un atto dovuto, ho piena fiducia nell'operato della magistratura, ieri come oggi, è il commento di Fini. Per Pignatone ci sono 2,4 milioni di euro arrivati nel 2009 dai conti di Corallo a quelli dei Tugliani con causale decreto slot 78-2009, cioè quando Gianfranco Fini era presidente della Camera e fu approvato un decreto a favore delle videolotterie, la specialità di Corallo. Per i magistrati è colorazione corruttiva, ma coperta dalla prescrizione. Ma il riciclaggio resta e non è tutto fango, quel che la stampa scriveva e scrive. Alla luce di quello che è successo, non c'era la macchina del fango, alla luce di quello che è successo, che l'influenza di quelle persone, secondo me, ha contato il 90% di tutta la vicenda. La prima cosa è prendere 1.400.000 euro che i Tugliani hanno incassato nella casa di Monte Carlo, chiamare i dipendenti del Movimento Sociale Italiano, poi AN, poi PDL, licenziati in tronco, te la ridiano a chi, visto che la Corleone aveva dato questo per la causa, almeno questa è una buona causa. Il suo segretario particolare un primo suggerimento per Fini lo ha: restituire i soldi frutto della vendita della casa di Monte Carlo alla Fondazione Fare Futuro, anche per risarcire in parte tutti quelli che sono stati licenziati con la fine politica di Gianfranco Fini e del suo partito. Per tutto il resto, naturalmente, aspettiamo la magistratura. 800 24 00 24, 349 238 6666, gli sms e pubblicità. Mix 24. Allora, Pietrangelo, che sentiamo stamattina per tirarci un po' sul morale? Arriva. In the morning when I wake and the sun is coming through, oh, you feel my lungs with sweetness and you feel my head with you. Shall I write it in a letter? Una rotellina, un inciampo, forse un destino, ha tenuto fermi tutti i viaggi oggi, quelli del cielo, quelli in terra, quelli per mare, e chi nell'andi rivieni si è costretto alla sosta, nel respiro ha trovato se stesso e dunque il sorriso. Ha chiamato Sancho Panza, ha voluto questo brano per Dulcinea del Toboso con un messaggio: non disperate signora, Don Chisciotte resterà pazzo anche da fermo e correrà da voi. Feelings never told when the evening pulls the sun down. Allora Mario, dove andiamo? Appuntamenti elettorali. Ebbene, abbiamo parecchi. Direi di sì. Andiamo. Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani sia il solo posto adatto per un bel ricordo. Mi stanno prendendo in giro perché ho messo Malika Ayane. Devo dire che è proprio De Profundis, come... Ma senti che voce. Una giornata proprio. Guarda. Una giornata un po' tristanzuola oggi. Senti. Allora, adesso è qui. No, ma... adesso è qui, vabbè, si vota da Regno Unito. Aspetta, devo dire una cosa a Claudio da Torino, che è un nostro fedelissimo che ci segue e lo ringraziamo, e dice: ma perché non ricordate gli insulti fatti ai pochissimi giornalisti che hanno detto la verità su Fini? Ecco, uno di questi giornalisti qui con noi era, mi sono beccato una querelona, e quindi da lui per tutti, Tulliani, diciamo, li riassume tutti. Cronina. No, io non rio... solo per me stesso. No, vabbè, dico solo per me stesso. Anche altri hanno fatto belle cose. Certo, assolutamente. No, ricordavamo prima, per esempio, tutto il racconto dell'acquisto della casa di Monte Carlo, sul quale ci siamo beccati tantissimi insulti di tutti i tipi, anche da colleghi che dicevano che tutta questa storia era una montatura. In realtà non lo era. C'era un nuovo Fini. C'era un'evidenza totale, era surreale, e si capiva benissimo che lì c'era un enorme imbarazzo. Io intervistai il senatore Caruso, che andò col tesoriere Pontone a Monte Carlo a fare l'acquisto, e ci sono delle scene surreali. Vabbè, dai. Allora, andiamo avanti. Andiamo si, vota, si vota nel Regno Unito. È molto interessante, ne discutevamo prima quando stavamo preparando la trasmissione con Giovanni e Pietrangelo, il fatto che Theresa May sia finita sotto il fuoco incrociato degli avversari perché si è rifiutata di avere un match diretto in televisione. Ora, dicono arrogante, però come sappiamo è una scelta, anche una strategia, quella di non fare gli scontri televisivi, i dibattiti. E la cosa che mi ha un po' sorpreso è che nel comportamento del pubblico e dell'elettorato inglese, queste sono cose che di solito contano meno rispetto al manifesto politico, le tasse e così via. Mi chiedevo, ma forse una risposta me la può dare Giovanni, se anche gli inglesi in qualche maniera abbiano superato la soglia del tubo catodico che decide tutto. Sono entrati nell'era della comunicazione. È vero che Blair era molta fuffa anche televisiva. Sì, però insomma, la televisione in un mondo sempre più superficiale, come dire, colpisce lo strato della superficialità, che spesso fa poi decidere le scelte. Mamma mia. Quindi è molto difficile sottrarsi. Peserà tanto sulla campagna elettorale italiana prossimo, ormai ci siamo, avremo una... Sì, pesa molto, secondo te? Può pesare in tanti modi, però, perché può pesare. Bisognerà vedere se si arriverà, per esempio, a un confronto tra Grillo e Berlusconi, tra Grillo e Renzi. No, sarebbe interessante. Cioè, se Grillo e Renzi che fanno un faccia a faccia, sarebbe mica male. Vabbè, lo share è sicuro. Sì, vabbè, sì. Okay. Pensa che battute, Salamino. Non tutte le elezioni vengono per nuocere. L'estate va in cabina elettorale e chiunque vinca, qualcuno se ne andrà, qualcun'altra resterà e sarà Eva contro Eva. Esce lei, la sacerdotessa dell'ideologicamente corretto, Laura Boldrini, beneficiata, ricordate, da un infausto streaming. Il maldestro tentativo di Pierluigi Bersani di mettere pace tra capra e cavoli, cioè 5 Stelle, Partito Democratico nel segno del populismo de sinistra. La presidente della Camera, poverina, non troverà neppure il modo, forse, di farsi rieleggere, perché la benedetta soglia del 5% farà zac zac di tutti i cespugli, e primo tra tutti i cespugli sarà quello della deriva altolocata e benestante bene comunista. Ma comunque noi in coro diciamo: dite a Laura che l'amo e che devo partire. Si deve partire. Esce lei ed entra più arrabbiata e più sciantosa di prima, più arrabbiata e più sciantosa di prima, più arrabbiata e più sciantosa di prima. Maria Elena Boschi, l'attuale sottosegretario, personalità forte dell'attuale governo provvisorio dell'inattuale signor Conte Paolo Gentiloni Silveri con la I lunga, tornerà in scena chiunque vinca, anche nel caso di una vittoria dei 5 Stelle, perché all'opposizione qualcosa si dovrà pur dare. E dove sarà? Nel ruolo di Presidente della Camera. E qui domanda che ci domandiamo: è lei o non è lei, soave, severa e serena musa della rottamazione, è lei o non è lei l'erede di Nilde Iotti? Ancora meglio poi, ella infatti, caro Giovanni, caro Mario, non ha alle spalle, ci avete fatto caso? Ci avete fatto caso? Lei non ha alle spalle un Palmiro Togliatti, ma è madre costituente a prescindere ed è forte, fortissima rispetto a tutte le accuse. Se ne va anche lei? Ma come facciamo a restare? Okay. E ci saranno altri? Lei lascia la politica o no? Sì. No. Anche rispetto alle contraddizioni, lei è forte, fortissima. E dunque ricordiamolo, ha anche fatto venire il broncio a Melania Trump. Nessuno ci ha fatto caso, ci facciamo caso noi. La First Lady americana, infatti, manco il tempo di godersi la partenza da Taormina della figliastra Ivanka e prendersi la scena, ha dovuto subire l'avvenente presenza della ragazza di Laterina, capace di fare perdere la testa, e le foto lo attestano, al premier canadese, troppo giugiolone però per prendersi il ruolo di nuovo Togliatti. Signorina qual è? Boschi mira in alto, e cioè in testa. Voi non lo sapete, ma noi lo sappiamo e lo diciamo. Sta infatti programmando di farsi utupundesta e sfidare la sorte. Il tuppo in testa come la Iotti e sfidare la maledizione che incombe su tutti quelli che vanno a fare il presidente della Camera, da Irene Pivetti a Fausto Bertinotti, da Gianfranco Fini a Pier Ferdinando Casini, quasi tutti azzoppati e dimenticati, come la Boldrini che, manca poco, avrà solo due candide creature al proprio fianco, le agnelline a suo tempo adottato, perché questo è... Beh, però mica sarebbe male come no, presidente. No, bello però, eh? È una storia non male. Senti Mario, c'è ancora una bolla? Sì, una cosa diversa, farà piacere ai tassisti. Un'altra voce italiana, senti. Stamattina mi andava così, Giovanni. Va bene. Sì. Siamo liberi qua, ancora per poco. Guarda. E mi sveglio tardi nei motel. Sbadiglio sopra un cappuccino e pago il conto al mio destino. No, volevo dire che comunque noi siamo i gatti e quindi abbiamo sette vite, quindi per poco per niente. Ma no, perché sta per finire la trasmissione. Comincia l'estate. Pieno di radio nel mondo. Vai. Allora, Uber è un fenomeno? Certo che lo è. È un modello di business efficiente? No, non lo è, cari amici, perché Uber ha accumulato una perdita nel primo trimestre di 708 milioni di dollari. Ma sono tanti. Nonostante abbia un risultato strepitoso dal punto di vista dei ricavi, perché fa 3.4 miliardi di dollari, che cosa significa? Per intenderci, i ricavi sono saliti del 18%, questi riescono a perdere un sacco di denaro. E allora come fanno a perderli? È un modello di gestione non efficiente. Cioè? E c'hanno un management non adeguato, infatti se ne va il cosiddetto CFO, cioè quello che si occupa della finanza. Cioè, ma incassano 3-4 miliardi di poi, dollari e poi perdono tutti questi soldi. Quindi significa che non va bene. La società non è ancora quotata, come sai, però probabilmente fa un'offerta pubblica, sicuramente, perché stanno cercando dei profili per sostituire il capo della finanza che se n'è andato, che sono, diciamo, degli esperti nel settore della quotazione, per cui probabilmente avremo anche un'azienda che offrirà bilanci più trasparenti. Per ora è ancora, diciamo, un enorme business, ma mal gestito. Vabbè, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Sono giovane, sono splendido, sono cattivo, sono bello e sono imbattibile. Hai 40 anni se non lo sai. E non meriti di salire sul ring con Cassius Clay. Il 3 giugno dello scorso anno moriva Cassius Clay, leggenda del pugilato, aveva 74 anni e da oltre 30 conviveva col morbo di Parkinson. 3 volte campione del mondo dei pesi massimi, detenne il titolo dal 1964 al 67 e poi di nuovo dal 74 al 78. Su 61 incontri disputati nella sua carriera ne ha vinti 56, 37 per KO. Solo una volta è stato lui a finire al tappeto. Sono il più grande campione del mondo che sia mai esistito. Io parlo con Dio ogni giorno e se Dio è con me, nessuno può mettersi contro di me. Ho scosso il mondo! Sono un uomo cattivo, ho scosso il mondo! Ma la leggenda di Cassius Clay va oltre quella del pugile vincente. Con carisma e intelligenza riesce a trasformare ogni sua scelta in una battaglia politica, diventando un'icona non solo sportiva. Si fa ambasciatore dei diritti degli afroamericani discriminati e diventa icona del movimento di resistenza alla guerra in Vietnam. Si converte all'Islam, prendendo il nome di Muhammad Ali, e si fa portavoce della religione. E infine si ammala di Parkinson e diventa un vero e proprio simbolo planetario della dignità della malattia, emozionando il mondo quando, già malato, porta la fiamma olimpica ad Atlanta nel 1996. Bene, a un anno della scomparsa dunque per i gialli della storia vi raccontiamo la leggenda di Muhammad Ali, come sempre dopo il giornale radio. E intanto Mario, c'è un aggiornamento? Ma sì, c'è una dichiarazione un po' surreale di Martina, la leggo così, vabbè, fa parte delle cose di folklore. No, dice, l'ambizione, il PD, l'ambizione è essere il partito del centro-sinistra, ma perché non lo è già? Certo, cioè, naturalmente. Cioè, se quella è un'ambizione dobbiamo preoccuparci. Del centro-sinistra? Ma non vuol dire niente, mentre cose un po' più serie, vabbè, hanno ferito un soldato a coltellate a Gerusalemme. Quindi? Le solite cose del felice Medio Oriente. Bene, adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Lancet, aprile 2017. La sifilide, malattia antica in tempi moderni. I primi casi di sifilide in Italia furono visti oltre 500 anni fa nei soldati francesi che invadevano Napoli. Da allora la malattia è stata nominata con molti nomi diversi, tra cui riporto quello di grande imitatore, perché ha molte manifestazioni cliniche che sembrano di altre malattie, oltre ovviamente alle lesioni genitali. Oggi la sifilide si cura facilmente con la penicillina, non c'è nemmeno bisogno di antibiotici più sofisticati, ma è ancora abbastanza diffusa nei paesi a basso reddito. Recentemente si sono però visti focolai in paesi ad alto reddito, come recentemente in Oklahoma, per la diffusione nei tossicodipendenti. Questo fa ricordare che può continuare ad essere, proprio per una scarsa attenzione, un problema di sanità pubblica. Allora ricordo che si trasmette per contagio sessuale, ma non solo, per ferite aperte, trasfusioni, aghi di siringa, e il rischio di trasmissione è elevato nei primi 2-3 anni dopo il problema e la localizzazione neurologica è quella sicuramente la più seria e la più grave. Le raccomandazioni sono le stesse, quelle che fa il medico responsabile della sanità pubblica degli Stati Uniti, le faceva già nel 1937. Bisogna fare dei test del sangue diffusi se ha il sospetto, bisogna educare la gente alla malattia, bisogna fare un trattamento appropriato e pronto e bisogna continuare a fare ricerca. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi ama i pensieri selvatici, ne segue le tracce come un segugio d'amore. Donatella Rettore, Cobra. Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia. Dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu. vita non è